genio. Ciao, buongiorno, ben sentito soltanto. Ehi, un po' in disarmo siamo, no? Non è che oramai la radio è finita. E allora, come va? Tutto bene? Tutto a posto. Tutto bene. Ma se hai ripiazzato il tuo linea a casa ora? Ripiazzato? No, siamo volgarci, c'è, basta. E boh, resta ancora tutto dentro le scatole, non ci piazza nulla, no, oggi, non c'è più piano. Non ho più voglia, come vuoi. Già ti viene la voglia. Bah, fa niente che va. Beh, vabbè, la sera c'è la gente. C'è qualcuno che c'è. Facciamo qualche chiacchiera già da voi. Sì, vabbè, ma io lo sto sempre facendo, sono impegnato a fare altre cose, no? Non è che mi interessa più di tanto, vai. Già va bene così, giusto per salutare, basta. Andare. Ma hai sempre l'antenna con l'altra foglia, con la Dimitri, come sono fatto il palo? No, sempre lì da una parte all'angolo sopra un muretto. Ah, ok, sempre ottimo il segnale. Ehi, già vi ascolto tutti, tutti mi ascoltano, oggi di... non me ne ho tutti più nudi oggi, davvero, non sto scherzando, no? Io ho venduto anche l'altro capo, ma ho venduto tutto. Sì, lo cazzo di questo, sono il Galaxy. Allora, ancora la visione, sì. Ehi, scusa che mi aveva chiamato mia moglie. Ah, ok. Guarda, come la formalità a casa nuova? Bello? Una sub pianetta, c'ho sempre da fare, c'è sempre da fare, ma una sub pianetta. È normale, la campagna si richiede sempre manutenzione, però la libertà di campagna non te la ripaga nessuno. E sempre da fare, c'è, io ho chiuso le finestre del Calvario, poi devo passare un tubo del recupero delle acque piovane, e l'angelo di qualcosa, oggi c'è sempre da fare. Piano piano così fermate il tempo, poi c'è lui da fare. Capito? Ti occupa qua, ci passi la giornata. Infatti te lo sto dicendo, sono sempre impegnato, quindi non è che a giocare in terra, adesso ero qua in stanza. Ho acceso, ho sentito a te, già ti riconosco. E anche tu c'hai un buon segnale, sei quasi 9. Non ho più paura di farmi sentire a nessuno. Finalmente mi hai ascoltato. Va benissimo, è stato qualcosa, va benissimo. Non l'ho chiesto anche l'altro giorno, non l'ho chiesto, non l'ho batto. Non devi dare niente, lascia perdere. Consulta sempre prima a me come hai fatto l'altra volta. Capito? Se hai necessità di qualcosa. Ma se senti qualcuno che vuole il Galaxy. Bisogna chiedere a quelli che stanno trasmettendo, io mi ce l'ho, io ho il Galaxy. Infatti ho messo questo perché a 220, non c'ho alimentatori, non c'ho niente, anche perché la cameretta che ho adesso non è più adibita a sala radio, capito, è una terza stanza per gli ospiti, quindi mi sono appoggiato lì momentaneamente, ma avrò così poco tutto. Ma già c'hai una stanza UBC alla radio, sì? No, assolutamente no, non faccio più sala radio. Se hai visto, ma ci ho venduto tutto, allora ne ho preso. Ho venduto tutto, tutto, anche 4.30 ho venduto. Ne ho preso un altro da riparare, stracobarato, ma lo stanno mettendo a posto, capite? Ma giusto per avere un HF così, mi resta che ho venduto tutto. Vabbè, decisione. No, non faccio più sala radio. Questa è la camera degli ospiti. C'è anche il letto, capito? Quindi solo che c'è una base libera, mi sono commesso il Galaxy lì a 220. Il microfono è buco. Già va bene. Giusto così per ascoltarvi e per salutare, insomma, là. Va bene. Ma poi adesso va bene, sta. Come la cosa è prevista. Tu puoi mettere anche il microfono originale, se tu non si esci. Già va bene. Proprio oggi, dai, ti saluto, ci sentiamo semmai in altre occasioni, che devo fare cosa. Ok, un abbraccio grande, alle prossime. Ci si sente. Ciao, buon tutto, noi ci sentiamo. Ciao, buona serata. Ciao, G. la musica che è la tua forza. CQ10, c'è qualcuno in ascolto? Siamo sul televisore, magari c'è qualcuno. Sente più il televisore che ti manca lì. È quello che le ho detto, ma mi sa che non ci sente, c'ha cioè il volume basso. Natalino! Stavo spegnendo il televisore. Zitta! Stavo spegnendo il televisore. Capito? E c'è qualcuno, ma le mie abbasse le stai fischiando. Vabbè, bene vanno le RAM. Sì signore, già le ha conosciute. Ah dai, tutte e due, sì, meglio così. Beh, più meglio è più migliore. Lo sto provando adesso. Ah, ok, dai. Attimino, mi sta colando il naso un attimo. Gaba gaba. Buonasera la Palice, arrivo lì da te. Marco, sei tu? Chi è che chiama su 10? Scusate, non posso rispondere, che c'è qualcuno che sta rompendo le scatole qui, ciao. Ci sentiamo alle prossime, quando potrò. Ok, ciao Natali. Ecco. Ciao Fran, ho un controllo, me lo puoi dare al volo, perché ho toccato questo microfono e la Lunis, e ho fatto probabilmente modifiche, guarda se è troppo alto. Direi proprio di sì, da me è quasi strappata. Guarda adesso, 1, 2, 3 prova radio. In netto miglioramento, basta un pochettino. 1, 2, 3 prova radio. Adesso inizia a essere la tua. Devo abbassare ancora, Giafra? No, forse può andare così, dai. Perché ho questa possibilità, 1, 2, 3 prova, così è più basso sicuramente. Mi senti? Sì. Però non esagerare. Allora, guarda adesso ho alzato la posizione, ho tolto il compressore e l'ho messo alla posizione più bassa. Guarda un po' adesso se va meglio. Sì, per me da così in poi inizia a andare bene. Non è né debole né forte. Perché adesso ho messo al minimo il compressore e ho sollevato un pochettino il Mickey Gain, diciamo in posizione da 0 a 10, in posizione un quarto di cosa, di intensità. Sì, ma in AM il compressore meno c'è, meglio è. Tu figurati che sugli apparati adesso, su molti apparecchi non lo stanno neanche mettendo il compressore per l'AM. Guarda, se mi consigli sollevare ancora così, adesso l'ho messo quasi a metà, 1, 2, 3 prova radio. Per me lo puoi lasciare benissimo così. E dimmi un po', ti ricordo parlante esterno, mi stai ascoltando o come? No, con l'altro parlante interno, però è frontale. Mi senti bene qui? No, adesso sono con l'equalizzatore, dimmi se ho troppi bassi, troppi acuti, adesso se c'hai 5 minuti così lo regolo una volta per tutti questo microfono e basta. Ma ripeto, io posso parlare per i miei gusti, va bene. Poi sicuramente ci sarà qualcuno che non le va bene, però per me la radio è chiarissima. Non è cupa come modulazione? No, è la tua, quella che mi ricordo, quindi dovrebbe andare bene. Perché io vorrei fare un confronto con questa regolazione e con l'altro microfono, in modo che siano abbastanza simili. Se c'hai disponibilità di 5 minuti, così lo faccio. Guarda, se vuoi ti faccio dare il controllo da te stesso, attacco il coso, il registratore, te lo rimando con Air direttamente. Allora, questo è un altro microfono, quello che uso solitamente, è più basso o più alto dell'altro? È più sparato. Non è che sia più alto, è più sparato come voce. Perché io voglio fare in modo che l'altro, quello che stavo utilizzando prima, sia allo stesso livello come intensità, come forza e come tonalità. Se ci riusciamo a farlo mi fa un favore. Ma questo è l'apparato, il microfono che utilizzo normalmente con questa distanza e con questa voce, diciamo, intensità di voce da parte mia. Adesso cerca di memorizzarlo e prova ad attaccarti immediatamente l'altro e mi dici cosa noti di differenza. Prova, vediamo un po'. Questo è l'altro, 1, 2, 3, prova radio, canale 10, 27, 0, 7, 5. Prima cosa voglio capire se è più basso. È più bassa, ma a me mi piace di più perché puoi stare ore parlando. Non assordi nessuno, non c'è bisogno di diminuire il volume. Perché l'altro era troppo forte, adesso ho sollevato un po' un peluzzino, guarda un po'. Ma oltretanto penso che non si possa andare. Per me non è cambiato niente, a parte che è aumentato di volume. No, ma posso cambiare di tonalità, cioè se tu vuoi, guarda, adesso io sto facendo un altro lavoro, hai cambiato qualcosa? Sono comparsi dei rumori strani, dei fischi, tipo innesco. Guarda adesso, 1, 2, 3 prova radio. Adesso no, va bene. Adesso sono tutto attenuato i 1000 Hz, adesso lo porto a metà, dimmi se cambia qualcosa. Inizia a essere più amplificata, sembrerebbe. Ma non sto deteriorando, cioè io parlo come qualità di modulazione, adesso l'ho messo tra meno della metà e il minimo. È un po' sparatina, dai, quella che piace a tutti gli altri, ecco, chiunque dice lascia così, anzi aumenta possibilmente. No, vabbè, non dico tanto disparata, io volevo capire se si può correggere la qualità di modulazione, più che altro. Ma penso di no. Su questo non ti posso essere utile, guarda, perché ognuno dice la sua, quindi non... Per me è chiarissima, abbastanza forte, altro non ti posso dire. Quindi differenza tra questa modulazione, va, memorizza questa modulazione qui e l'altra che te la metto immediatamente con l'altro microfono. E questa è l'altra modulazione, cosa noti di differenza? Questa è un pochettino più alta, ancora più amplificata rispetto a quella là. E di qualità diciamo, non è che magari ci sono troppi bassi, più cupa, più alta, più acuta, cosa noti rispetto all'altra? Non è tanto questione di alti, di bassi e di essere cupa, sotto quel punto di vista va bene, è che se usi questo devo abbassare il volume un pochino, se usi quella là non c'è bisogno perché è forte, però non come questa, ecco. Non puoi neanche vedermi, tu ci avevi la possibilità di vedermi, cioè la modulazione, ci avevi un coso, un sistema di vedere visibile per vedere qualcosa. Sì, in entrambi i casi il picco è fuori scala, capito? Quindi è quasi inutile. Anche se lo metto, ti fa il grafico, dovrei mettere attenuatori, però i livelli quelli sono. Allora io adesso, questo qui è il livello che utilizzo sempre io di microfono, adesso rimetto l'altro e se mi fa la cortesia di mettermi allo stesso livello di microfono, cioè di intensità microfoni. No, io ti posso mettere a livello di volume, che fino adesso non l'ho toccato. Di volume dico, non toccare niente, tieni memorizza questo livello di volume, adesso metto l'altro microfono e mi dici sì, sei più o meno allo stesso volume di questo che sto utilizzando adesso. Questo è l'altro microfono, è più basso come lo noti? Ma se tu rimani fermo parlando, mi sembra che sia un pochino adesso più incisivo, nel senso di potenza sempre. Quindi sono simili come parliamo, come livello di intensità di microfono, cioè di forza, di modulazione? Praticamente sì. Non ti devi abbassare o alzare, perché poco fa mi ha detto, quando parli con l'altro ti devo abbassare. Con questo siamo più o meno come livello uguale. Sì, ma sembra che sia una compressione eccessiva, per cui non è proprio... Prova a parlare più lontano, vediamo un po'. Allora, adesso io mi sono un pochettino allontanato, sono più di 50 cm, però tieni presente, posso agire sull'equalizzazione. Adesso mi ho abbassato un peluzzino l'equalizzatore i 2000 Hz. Sì, però in AM se uno non c'ha uno stereo, non si apprezza, e lo stereo in AM non esiste. Ah vabbè, diciamo, per fare qualcosa, io quando faccio le regolazioni agli altri c'ho modo di vederlo, oppure così dico mi stai sollevando gli acuti, li stai abbassando, però uno a orecchio magari riesce a fare qualcosa di meglio di ascoltarti con un baracchinetto con l'autoparlante da 3 cm che magari non riesce a avere la risposta acustica di quanto puoi avere un autoparlante un po' più grande. Beh, questo l'autoparlante di quelli non da 3 cm ma diciamo da 4, ecco, da 4 centimetri. La peculiarità è però che è di alta qualità, perché lavora anche in digitale. Quindi lasciala così, ecco. Poi ci sarà qualcuno più esperto che ti dirà se le piace o meno, ecco. Vabbè, ma purtroppo molte volte quando chiedo i controlli mi ascoltano con baracchinetti e non hanno l'autoparlante esterno. Io ascolto sempre con la tua parata esterna, diciamo le orecchie, quello che dice l'orecchio, e poi mi guardo con degli analizzatori in modo che posso anche vedere effettivamente se sei in distorsione o se hai carenze o eccessi di frequenze, diciamo entra in range di cose di emissione su questo tipo di banda, sulla 26. Sì, comunque per me adesso va bene, mi ho scordato il coso, come si chiama il... io vado a seriali, no? Per i collegamenti audio, vado a porte, però ogni tanto mi dimentico qual è la porta, mi sto facendo giro di tutte le porte per cercare il... quello che mi consente la... il replay digitale, lo fa anche l'apparecchio, però ritengo sia meglio quello del computer, che almeno vede anche le tracce. Adesso voglio fare un'ultima prova, sempre se non ti disturba, con un altro apparato, un pochettino più serio di questo, così mi regolo anche il livello però dalla radio, in modo che ci abbia lo stesso livello microfonico che utilizzando in questo apparato lo voglio nell'altra radio. Se attendi un secondino, attacco l'altra radio, commuto e mi dici se devo alzare o diminuire il mic gain. Sì, se, ti posso dire che noto comunque una specie di difetto, ecco, io sono a filtro largo in questo momento ovviamente, quindi il massimo della larghezza di banda, che a seconda dell'aumento dell'intensità della voce enfatizzi molto certe parole o certe lettere. Ok, allora tieni presente, memorizza, questo adesso è il solito microfono che utilizzo io, guarda questo livello microfonico e lo passo adesso su un'altra radio con un altro microfono, in modo che siano più o meno simili come microfono, cioè come intensità. Adesso commuto l'altra radio, un secondino. Fai. Allora, questa è l'altra radio, prima di tutto sarà sicuramente un suono diverso, una modulazione diversa, cosa noti? Sì, sicuramente è un suono diverso, non c'è ombra di dubbio. Ah, eccolo qua. Io ti volevo registrare perché almeno giudicavi tu, capito? E solo che lo stavo facendo e non c'avevo la serie inserita, ce lo credo che non l'ho trovato. Porca la miseria. Vabbè, mi sa che adesso è registrabile. Allora, prima di tutto, poi se lo vuoi fare la registrazione, grazie. Dimmi un po' il livello microfonico di questo rispetto all'altro, è più alto o più basso? Questo è, come si potrebbe dire, più piano nel senso che è più orecchiabile. Non ho notato quell'effetto di prima che tendeva a enfatizzare certe lettere. Certe parole che dicevi erano più, insomma, mi hai capito, no? Adesso sembra che vada bene. E dimmi, come pulizia di segnale, questo dovrebbe essere molto meglio dell'altro, almeno se cerchiamo di controllarlo. Aspetta, devo mettere l'impostazione audio. Dovrebbe essere un pochettino più selettivo come tipo di emissione. Prova a andare. Allora, 1, 2, 3, prova, canale 10, 27, 0, 7, 5, prova di modulazione. Sì, è costante, è quasi simile alla mia dal punto di vista del livello, sono a meno 30 dB. Ed è pulita, non vedi sporcizia, dai, come poteva essere l'altro. Metti la portante. No, no, più lunga. Lineare. Si sente solo il picco dello schiacciante del microfono. Magari avrei sentito qualche rumore di sbattere la porta, perché c'è la mia figlia arrivata, ha sbattuto la porta. Dico, come pulizia non vedi quando c'è la cascata, tu stai guardando la cascata della modulazione, così? Tutte e due. Rispetto all'altra è più pulita. Così sembra, quando fa le pause si blocca proprio, capito, è proprio lineare, non è presente niente. Ehi, meglio così, dai. Comunque il livello microfonico è simile a quello dell'altro apparato, Gianfra. L'altro, ripeto, è dal presente sia più forte e più marcato, dal punto che in certo parlato risulta fastidioso. Ah, così, questo è un po' più salottiero, dice. Salottiero, però che si fa sentire, ecco, non salottiero basso, insomma, mi ha capito, no? Non è certo una radio bassa. Ok, no, l'importante è che sia tutto a posto, tranquillo. No, vabbè, questa stiamo parlando di una radio un pochettino di un gradino superiore a quella che stavo utilizzando prima. Dai, va bene. Sto utilizzando però non il solito microfono, sto utilizzando il 908, l'AV908, al contrario del solito che utilizzo, con un'altra radio questa. Aspetta, hai detto AV908. Qual è quello nero con tanti pulsanti? È quello della Dunisi con l'equalizzatore a 4 bande, compressore, eccetera, eccetera. No, vabbè, la Dunisi, ti riferisco come sono? Sono sicuro che sia una V8, però normale, senza strumenti, quello con, cioè, 4, 7 pulsanti davanti più 2 per il PTT look. C'è un sacco di roba, c'ha l'equalizzatore in alto a sinistra, poi c'ha la commutazione per 3 microfoni A, B e C, poi c'è il livello, il potenziometro di livello, 3 livelli di compressore, l'equalizzatore lo puoi inserire, disinserire, oppure c'è un'altra funzione che non so a cosa serve perché l'ho provato, poi c'è il PTT, il look e poi sopra c'è il call, VFO, le memorie e un tasto PF, probabilmente sono da calibrare per qualche tipo di apparato, non lo so, qualche funzione per qualche altro tipo di apparato. Sì, a me funziona tutto down, poi c'è il power per il coso lì, il LED down air, però mi sa che tu c'hai quello che risulta più grande, io di quelli ne ho 3 in stazione per i vari apparati. Quello che c'ha lo strumento, perché ne hanno fatto diversi di questo, hanno fatto il 108, mi sembra altro il 408, il 508, il 908. Il 908 era quello più evoluto, diciamo, al top della gamma. Sì, no, questo è quello stramarcato, uno è Avair, l'altro neanche ne è di marca, però sono tutti identici, non è chissà la marca originale qual è, fate la pesca. Ne ho 3 tutti identici, quindi senza strumento, versione a vuoto, credo che si chiami. E li hanno fatti anche la Prox, le diverse marche, ma più o meno sono tutti uguali, dai. E sono, diciamo, la base dello schema è quello lì probabilmente, dai. No, il problema di questo apparecchio, non riesco a regolarlo come voglio io di questo microfono, perché quando mi ascolto con un'altra radio, devo staccare l'antenna e tutto, però ti rimane appena appena un residuo di alternata, per cui non riesci a capire bene le regolazioni. Cerco di abbassare al minimo la potenza, proprio pochi milliwatt, per cercare di non entrare troppo sul ricevitore. Però è talmente sensibile l'equalizzatore, tu appena lo tocchi subito ti cambia completamente la modulazione. Ma che apparecchio è quello? Quello che sto ascoltando? Sì. No, vabbè, l'apparecchio è uno dei soliti che utilizzo. No, io sto parlando, quando mi ascolto, mi utilizzo un altro, per esempio posso utilizzare l'ICR7000, posso usare gli altri baracchini che ho poi quello digitale, quel ricevitorino piccolino digitale, però cacchio, entra sempre un pochettino di radiofrequenza e mi dà questo ronzio sotto e non mi permette di avere la regolazione come la voglio io, proprio pulita. Ho capito. Per me va bene, poi ripeto, trovare un compromesso in AM, la chiamo antica modulazione, non per nulla, perché è sempre stata così, veloce agli inneschi, veloce all'alternata e così via. Sì, sì, hai detto bene. Poi tra l'altro non è che abbiamo un'altra fedeltà, perché la risposta è da 300 a 3000 Hz come risposta in frequenza, non stai ascoltando una broadcasting 8808 che arrivi fino a 15-16.000 Hz, da 20 a quasi a 20.000 Hz, diciamo, al livello di ascolto di umano, di essere umano giovane, dai, neanche vecchio, perché non ci arrivi a quelle frequenze lì. E qua sei limitato dai 300 ai 3000, però vorrei che quell'arco di frequenza riuscisse a avere il top dell'emissione, considerando il tipo di apparato che sto utilizzando di trasmissione e il tipo di microfono, visto che ti permette di fare delle equalizzazioni. Con i nuovi digitali c'è l'equalizzatore parametrico, lavori su tutto quello che vuoi tu, c'è centinaia di regolazioni e puoi fare quello che vuoi. Questo nel suo piccolo c'ha soltanto 4 bande di equalizzazioni, però sicuramente è meglio di utilizzare un MP+5 che c'ha soltanto un controllo unico che ti sporca più che altro la modulazione o ti attenua un pochettino. pochino, gli acuti o te li esalta, però togliendoti altre cose. Sì, infatti. Guarda, io purtroppo questo non ricordo come si manda in trasmissione. Non so se il Vox lo gestisca la parte digitale. Guardati, provo a mandarti sotto la mia voce, vediamo un po'. L'ho impostata, sì. Frequenza e mi dà questo ronzio sotto e non mi permette di avere la regolazione come la voglio io, proprio pulita. Sentito? Sì, sentita, ti posso dire, è abbastanza sufficientemente buona, dai, è discreta come modulazione, non è brutta, dai. Sì, non è al 100% perché, aspetta un attimino, che provo se va da sola col Vox. Ok, vai. No, infatti no. Proprio pulita. Non la gestisce il Vox, purtroppo. No, ma mi sono sentito abbastanza chiaro, dai, se quello come mi ascolti tu con quel tipo di coso è abbastanza fedele come registrazione, quella che mi hai mandato. Beh sì, è digitale, ripeto, l'unica imperfezione è che mi tocca premere il pulsante del microfono, cosa che normalmente sull'altro non faccio perché c'è un inserimento automatico. Ah, forse anche perché non ho inserito qua il coso, il comando seriale di trasmissione. Però questa è dal computer direttamente, quindi la qualità è così come arriva, te la manda. Sì, ma dico anche come intensità, non parliamo di sonorità, parliamo di intensità, è quella lì, perché mi sono ascoltato e ti ascolto allo stesso livello di come ti esci tu, lo stesso livello ci avevi. Sì, infatti. Beh, poi tieni presente che magari tutti questi valori non vanno più bene quando metti la M o la banda laterale, perché la M è praticamente una cosa a cui non importa nessuno, solo qua, qualche CV, ma anche fuori non si sa più. Sì, ormai solo a 27 mi sa che la usano, e poi in bande diciamo non amatoriali, in altre cose ancora lo stanno usando. Guarda se sta fischiando questo microfono. Non sta fischiando, però si è strappato, Natali. Strappato, troppo forte. No, tu, a colpi, stava andando adesso anche innescato. Guarda a vedere un po'. Ti sento spezzettata, parla normale, fa un passaggio più lungo. Guarda, 1, 2, 3. Sì, ha detto 1, 2, 3, fa un passaggio più lungo, Natali, non posso valutare. In modo continuo come parlato, non dire 1, 2, 3, fai un passaggio un po' più lungo. Sì, non ci sarà un abissato questo microfono, rompimi il canto di Buruetto, che ti ruolava un po' subito. C'è questo tac, tac, questa scarica, non so se sia il PTT, magari che non lo stai tenendo bene o c'è un po' di ossidazione, buh. Può darsi, buh, non lo so. No, Natali, stai andando a colpi, fa tac, tac, sembra che ti manchi la tensione quando stai parlando. Natali, dimmi. Guarda, ti faccio ascoltare tutto, ma tu devi stare soprattutto attento alle pause, stai attento alle pause quando arriva. Non sarà un abissato questo microfono, rompimi il canto di Buruetto, che ci ruolava un po' subito. C'è questo tac, tac, questa scarica, non so se sia il PTT, magari che non lo stai tenendo bene o c'è un po' di ossidazione, buh. Può darsi, buh, non lo so. Ma è strano, non me l'ha mai fatto. Hai sentito le pause? Che si sente una specie di barattolo quasi. Ma prima andava bene questo Turner, chissà cosa mi ha sorseato. Guarda la batteria, Natali. No, eccesso d'amplificazione. Quello è il sottofondo. Guarda, adesso l'ho abbassato. No, Natali, c'è tipo uno strappo. L'ho abbassato. Il microfono è più basso adesso. Poco fa era a metà, adesso è a un quarto. No, ti spezzetta la modulazione, Natali. Sì, vuol dire va che cosa gli non andava. Ci avrà, non lo so. chiuso il microfono normale, basta. La modulazione è chiara, però c'è parli così, tipo a pezzi. E forse ho il PTT, bro. Forse è il PTT, infatti quello sto dicendo, magari il contatto magari non è perfettamente efficiente, magari a momenti te lo tieni, a momenti no, c'è qualche lamella, siccome il carne non è un'unica lamella, ci sono tre lamelle quando se tu lo apri, magari appena piegata e non fa contatto in contemporanea con le altre due. E io ho capito, adesso provo a aprirlo. Liga, vai già fra. Sì. Sempre lo stesso discorso della M, c'è poco da fare. Stamane stavo ascoltando su in 29, c'erano i ripetitori, c'erano due o tre, ne ho sentito, ma una cosa micidiale veramente. Ma qua da noi? E dove? 27, 28 e 29, ma da 10 metri. Dico, il ripetitore è qua da noi, vicino a noi. No, sono uno, credo che fosse in Germania, poi ce n'è uno in Svizzera, e l'altro sicuramente era roba francese e roba spagnola. Ma una chiarezza micidiale. Quello italiano non l'ho sentito, ho provato qua a trasmettere, ma non andava. In quegli altri due invece anche al minimo della potenza, ma l'ha detto, è sensibilissimo. Funzionava subito anche in trasmissione. Ma ci va qualcuno in 10 metri? Sì, di lì c'è la gente, perché essendo ripetitori lo usavano. C'è uno shift da paura, strettissimo, pari a 10 canali CB. Ok, io rispondo un attimo al telefono, scusatemi un attimo. Ok, che è avanti. Chi sta parlando non sta uscendo di radio, quasi, è molto basso. Ehi, Nathalie, ho tutto nulla, sei con filo di voce. Ero con un filo di voce perché l'ho aperto. Guarda un po' adesso, gli fa gli scatti. Si sente questo sottofondo strano, che non ci dovrebbe essere. Sono rientrato io. Sì, guarda Robè, è rientrato anche Natalino, sta regolando. Adesso ricambio radio, adesso sono con quell'altra, con una radio col 908, adesso ritorno con l'altra che utilizzo normalmente. Gianfranco. Ok. Questa è la mia solita, 1, 2, 3, prova radio, questa è più forte. Di nuovo. Aspetta. Prova a andare. 1, 2, 3, prova radio, canale 10, questa è la solita mia radio. Di più? Come, scusa? Parla di più. Sì, allora, canale 10, 27.075, questa è la frequenza, prova di modulazione. Ok, ma rimando, vediamo un po'. Radio, canale 10, questa è la solita mia radio. Come, scusa? Sì, allora, canale 10, 27.075, questa è la frequenza, prova di modulazione. Allora, questa mi sembra un pochettino più forte e un pochettino più acuta come tonalità. L'altra forse era la migliore, no? Cosa dici Gianfranco? Più piacevole l'altra? Sì, prova ad andare e metti un pochettino di portante senza aver modulato. Per vedere come esco la pulizia del segnale, senza parlare, così dici. Ok, vediamo un po' se riesco a mandarti. Radio canale 10, questa è la solita mia radio. Come, scusa? Sì, allora, canale 10, 27.075, questa è la frequenza, prova di modulazione. Aspetta un attimo che c'è una pausa lunga perché non l'ho alzerato. Per vedere come esco la pulizia del segnale, senza parlare, così dici. Sentito? Cosa presente? Sì, no, vabbè, ti è presente che c'è mia figlia, sta ascoltando musica nel sottofondo, un po' si sentiva un po' alto il volume. No, ma dico, come parliamo qualità di radiofrequenza, non parliamo del resto. Rispetto all'altro hai notato differenza, qua ci sono più sporcizia, più sporco il segnale. Sì, immaginavo, dai, vabbè, questa è un pochettino diversa, la radio, un altro tipo di radio, dai, l'altra era un pochettino più, non dico più professionale, un pochettino più controllata, dai, diciamo così. Infatti, così. Vediamo Natalino, se ha rimediato Natalino, niente, sta avvitando, deve essere, lo sta smontando, lo sta martellando. Ma ti dicevo stamattina, sì, sui 10 ci sono un paio di ponti che riesco ad andarci. C'era anche un po' di propagazione, ma comunque il segnale purtroppo quando siccome c'hanno i toni anche quando premi a volte ne pizzichi tre contemporaneamente, quindi non capisci dove sei, su quale ponte sei, altri c'hanno i toni, è più facile. Ah, non sai, non riesci con i toni a individuare? No, i toni possono andare in automatico, quindi mi dice qua istantaneamente il tono che sta ricevendo, il subottono, però ci sono gli altri che non ne hanno, quindi entrano in funzione anche loro, capito? Adesso per la ricezione satellitare con gli strumenti nuovi, che ti dice esattamente il transponder, tu per dire devi fare un allineamento di parabola, non sai dove cavolo è, ottobiso, alta, quello schiacce automaticamente, tipo quando ti appare la sovraimpressione con l'ombra del canale quando te lo guardi sul televisore, la stessa cosa, automaticamente c'ha un segnale monitor il satellite, per dire c'è il transponder della RAI e ti dice transponder numero 541 RAI, così lo strumento sa che sei esattamente su quel satellite lì, perché prima siccome Astra e Autobil sono vicini, quando vai a fare gli allineamenti ti vanno verso su Astra o su Autobil, per esperienza lo sai perché ti porti la frequenza e lo sai, però con questi nuovi, come si chiama, misuratori di allineamento parabola, in automatico ti dice che cosa stai ascoltando, che satellite in quel momento lì, ed è molto più facile. Beh, anche quello che ho io sui portatili, che la radio veicolare, la radio base, se te li imposti ti dà tutto, ti dà la posizione, dove sei, l'altezza, il BER, tutto quanto, se l'emissione è in chiaro, se l'emissione non è in chiaro, insomma un po' di tutto, quelle digitali, la radio fanno questo e altro. Sì, ormai il futuro è quello, ormai c'è un computer che ti fa tutto quello che prima ci volevano 20 strumenti per avere quelle informazioni, adesso fai tutt'uno con il coso. Io con l'altro, quello della UNAM, vabbè, quelli sono parecchi professionali e costavano una banca di milioni e di migliaia di euro, vabbè, non milioni, di migliaia di euro, quello che c'ho, ne ho due, uno più piccolo della Pro, ma sempre uno della UNAM, quello è micidiale, quello che ti dà tutto lo spettro in tempo reale, costellazione, mer, tutto, ti dà tutte le informazioni, interruzione di cavo, se gli echi, i riverberi, ti dà tutto quando fai un allineamento di parabola, per devi mettere il cavo, la perdita del cavo, se c'è un'interruzione del cavo, ti fa tutto, tranne non so se c'è la fibra, questo qua, non lo so di quello. Io stavo guardando gli apparati che usano le poste, no? Le stazioni d'ascolto, eccetera, anche quelli mobili, c'è quello piccolino dalla Roda Svarze, che a parte che costa quanto un appartamento, però fa delle misurazioni da paura, ti dice chi sei, dove sei, da dove arriva, l'intensità, se è riflessa, se non è riflessa, è giusto lo stato, se li può permettere, capito? Adesso 200.000 euro costa quella parete. Ho sentito qualcuno sotto, avanti, chi vuole entrare? C'era uno nuovo, ho visto, stava chiamando, avanti con la buonasera. Guarda un po' Roberto a vedere se ha migliorato la situazione qua. Sì, ha migliorato tanto, adesso non ce l'hai più quel difetto. Forse ci è abbassato anche un po' di segnale, Natalia, o sbaglio? Ma no, i vasi non li ho toccati, sono 2,5, come al solito. Aspettami, adesso è come era prima, a metà. Guarda un po'. Ma A metà che cosa? La potenza o il microfono? No, il microfono, la potenza non ne sto toccando, no. L'ho aperto il turner, gli ho raddrizzato una di quelle alette che erano lamelle, sono quelle lamelle che fanno il contatto praticamente. Stanno andando bene, devono essere perfettamente allineate, perché sennò una tocca un po' di più dell'altra e quando tu schiacci non riesce perfettamente, saltella l'altra. Devono essere perfettamente allineate quelle della, del tunnel. C'è un sistema un po' particolare, le hanno fatte in tre pezzi, non è unica come gli altri tipi di PTT, un pezzo unico, una piattina unica. Comunque sta andando bene. Natalia, avanti a te già, Fra. Sì, sotto, io sento sempre questa specie di rumore di fondo, capito? Comunque la compressibilità è totale. E K, va bene. Il fuori sottofondo. Mi apro il telefono un attimo per me, scusate. Non c'ho altra cosa. Sì, è il problema di quando si è. C'è una grossa amplificazione che la capta anche quando lo tiene in basso, tutto lì. Comunque lasciato così. Ok, va bene. Sembra che c'è un motore dietro, cioè per esempio quelle fabbriche quando uno è in automobile, si sente tipo quell'effetto. Ma non è che c'era la ventola dell'alimentatore per caso? Probabile, se tu te lo metti vicino è quasi scontato che sia la ventola. No, è lontano, è in alto addirittura, ma forse si sta facendo rumorosa la ventola, anche se io non la sento, e può darsi che influisca sul microfono. È probabile. Prova a metterci la mano sopra, tieni la portata e mettici la mano sopra il microfono, in modo che non la capti, vediamo se sparisce. Se c'è problema di massa, guarda, 1, 2, 3. No, non mi hai capito. Metti un attimino la portante e sopra il microfono tappalo in modo che non percepisca nessun suono, per capire se sta arrivando il microfono, perché questa ventola fa troppo rumore, oppure se arriva con i cavi o qualcosa d'altro. Guarda, guarda, si sente lo stesso. Si sente lo stesso, quindi è così, sta arrivando da qualche, il tipico rumore proprio di qualcosa che gira, capito? La ventola socio del coso, anche quella del computer, a dire la verità, perché è acceso. Allora dicevo, non c'è quella del computer. Vediamo un po'. Ticchetti che si sente. Adesso lo spengo e vediamo un po' se. Adesso dovrebbe essere spento. E devi aspettare un po' proprio che si spenga del tutto. È l'effetto macchina, Robert. Quando è in macchina, no, che se mai c'è il finestrino aperto, vuole così sempre. L'unica cosa è che non si riesce a capire se le sta arrivando in diretta dalla capsula microfonica o se le sta arrivando dai cavi, ecco, perché c'è una carenza di massa oppure non è schermata la ventola con quel compensatore e tutto lì. Possono essere tante cose, no, ma adesso senti con un ticchettio, ti quando stava parlando, e poi questa specie di soffio quando cammini con un finestrino aperto. Ehi, adesso ho spento il computer, è spento proprio. E ventole non ce n'è che stanno girando. C'è solo quella dell'alimentatore, ma è lì sopra, a meno che non sia quella rumorosa. Vabbè, se spegni l'alimentatore non hai alimentazione per il coso, se no si può provare quello. Infatti, se non è che lo sposto l'alimentatore lo metto ancora più lontano, boh. Comunque si sente ancora la situazione del vento. Sì che si sente, non è fastidiosissimo, ma si sente. E poi sento questo tic tic tic tic tic. Boh, allora, il microfono, guarda un po'. a un quarto. Deve essere tu, quando premi, non fa contatto perfettamente, fa tic tic tic tic, a momenti te lo fa, non sempre però. Ho capito, ma non so che dire. Ah, va bene Natalie, stiamo facendo i perfezionisti, già va bene, dai, niente da dire. È la tua mano probabilmente che schiaccia troppo forte e quindi a forza di schiacciare forte i contatti si allontanano, ecco. Adesso è leggera la mano. Ma che batti con un martelletto, tic tic tic. Dimmi, è da tavolo oppure è di quelli col filo? No, da tavolo è un Tarrant più 3 di quelli americani che hanno le alette, quelle lamelle per fare contatto. Sì, le conosco, sono in bacchelite, hanno i separatori in bacchelite. Puoi anche stringerli un pochino se vuoi, ma sì, tende a farlo quello lì, eh. È proprio un problema di quei contatti, perché normalmente se li guardi bene sopra sono protetti quando sono nuovi, poi man mano che gli anni avanzano si forma una specie di ossido, di polvere, ed è quello che crea tanti problemi. Adesso hai innescato tu, Gianfranco. Sì, l'ho sentito perché ce l'ho da fare inavvertitamente troppo alto. Infatti lo stacco. Se non vi serve più, stacco il coso lì, la registrazione con AIR. Il monitor, No, niente importante, però te l'ho voluto segnalare, visto che c'è sempre pulito. Adesso sto mettendo la propria lettera, c'era qualcuno sotto in banda laterale. Anzi a Gotto qua arriva, lo sentite? Sì, si sente. E a tratti si apre, si chiude, si apre, si chiude. Sì, ok, lasciamo la tigre di bianco se qualcuno nel frattempo vuole entrare, se no riprendi tu Natalia. Nulla, vai di nuovo Natalia. Riprendo io, là. Lo lascio così, basso, cioè basso, a un quarto, là. Vediamo un po'. Se non è che vogliono puliti quei contatti. No, adesso già c'è andato bene la tarifa. Va bene. C'è uno sotto basso basso. Ci dovrebbe essere. Avanti, chi vuole entrare? Sarà un po' grigio. No, c'è qualcuno che parla, però è mezzo a correre, Santiago 7 qua, però non capisco quello che dice. No, io come segnale c'ho zero, proprio arriva a zero il coso. No, qua ce n'è tanto, QRM ce l'ho sì io qua. Minimo di 6 non scende. Forse stava parlando. Chi è che vuole entrare avanti? Mi sa che in questo locale ho sentito uno che parlava un'altra lingua. Però era S0. E qua invece c'ho QRM anch'io come Roberto. Non so cosa dire. Io sento questo QRM qua, ma vabbè, sembra che c'è un accendino di quelli zippo Natali che fa tic tic dove accende che vuoi che te dica. Ma voglio fare una prova, stavo guardando, qualcuno ce l'ha quei DSPSM a collegarlo all'apparato, se riesco un po' a pulirmi il segnale quando ci sono segnali bassi per cercare un po' di pulire, attenuatori di QRM, qualcuno ne parla bene. Non saprei dirti. Io attenuavo lo squelch, solo che dopo i più bassi non li senti, quelli bassi bassi. Se non arrivano almeno Santiago 7 non li sento. No, beh, lo squelch io non lo utilizzo, non l'ho mai utilizzato, non mi interessa. Io voglio pulire per togliere il fruscio quando stai ascoltando una conversazione lontano che c'è molto fruscio sotto, con questi sistemi digitali riesci a pulirlo, togli tutto il rumore e lasci in evidenza la modulazione. Sì, ho capito. Aggiù capito. E io per non avere flussi vari, non lo uso per quello. Ma l'FM tutti ce l'avete? Io l'FM già ce l'ho. Proviamo l'FM Natalia. Proviamo. Dai, FM. Ok. Ho sia che magari vuole entrare qualcuno e non ha l'FM. Di nuovo, ci siamo? Eia, ci siamo. Sì, anch'io. Mi sono trasferito un po' in FM per sentire se vi sentivo. Vi sento quasi come banda laterale, figurati. Io ci sono comunque lo stesso. Sì, e tu come vi sentivi in FM già fa? No, benissimo. Benissimo, questo è un apparato fatto per l'FM essenzialmente, non è fatto per l'AM, ecco. Funziona anche l'AM ovviamente, però senza grandi pretese. Ok, va bene. Va bene, dai, continuate che stavo guardando qualcosina qui nel cassetto, che sto cercando qualcosa che non riesco a trovare, non mi ricordo dove l'ho messo. Natalia, dai, continuate voi, dopo niente. Ok, riprendo io. Cerca, troverai, caro Giulio. Avanti, Gianfra. Sì, anche l'effetto come quando uno ci ha attaccato qualche lineare di quelli grossi, Natalia, questo rumore di vento, le ventoline, eccetera. Vero, Roberto? Sì, ma la cosa strana è che in FM era pulito.